Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come sempre il venerdì avremo anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi della pubblica amministrazione. Parleremo però anche della vicenda popolare di Vicenza, non solo perché insomma vi sono state notizie durante questa settimana, ma soprattutto perché lo scorso martedì il Consiglio di Amministrazione della Popolare di Vicenza, della nuova Popolare di Vicenza, ha dato via libera all'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, e avremo ospite il vicepresidente Salvatore Bragantini, che lo ha reso noto. Poi l'Assemblea a fine novembre delibererà sulla proposta, e questo dovrebbe servire, se passerà, per fornire un parziale ristoro delle perdite per chi abbia investito in azioni della Popolare di Vicenza. Ricorderete che a marzo 2016, in maniera un po' incredibile, l'Assemblea non votò un'azione di responsabilità nei confronti dei vecchi vertici. Sappiamo cosa è successo: le azioni che da 62,5 euro sono passate a 0,1 euro, ma soprattutto senza la possibilità di essere vendute, perché non essendo quotate, quando cercavi un compratore in banca non c'era mai un compratore per i tuoi titoli. E tra l'altro, domani, sempre in tema bancario, si terrà invece l'Assemblea della Popolare di Milano. 12.500 i soci registrati, 6.000 le persone fisicamente attese, record storico. È l'Assemblea che dovrà votare in via libera la fusione col Banco Popolare. E tra l'altro oggi, sempre sul fronte bancario, segnaliamo che il neo numero uno del Monte dei Paschi, Marco Morelli, presenterà al Consiglio di Amministrazione un aggiornamento sul piano industriale, che poi dovrà essere presentato ufficialmente lunedì 24 ottobre, e anche di questo parleremo. Parleremo anche dell'incontro tra governo e sindacati sugli interventi in materia previdenziale. Allora, è da inserire nella legge di bilancio il tetto, già vi ricordavano i nostri GR24, tetto a 1.350 euro per l'APE agevolata per i disoccupati, disabili e alcune categorie di lavoratori impegnati in attività faticose, purché abbiano un reddito inferiore ai 1.350 euro lordi. L'APE sarà in vigore dal 1 maggio 2017. Questo del tetto di 1.350 euro, poi ne parleremo bene, riguarda chi vuole l'APE, chi può accedere all'APE, all'anticipo pensionistico agevolato, comunque almeno 30 anni di contributi per i disoccupati e 35 se si è lavoratori attivi. Il sindacato ritiene che questa soglia sia eccessivamente alta, eccessivamente penalizzante. Ne parleremo. La borsa più 90% in questo momento Milano, più 1,50 Parigi, più 1,50 Francoforte, più 0,77 Londra, più 0,55 il Dow Jones. Molto bene. Oggi le due banche che prima citavo, Banco Popolare, le banche in via di fusione, più 6,92, Pop Milano più 6,25, Unipol Sai più 5, Unipol più 5, Pop Emilia Romagna più 4,90, Ubibanca più 3,5, e poi di non bancario Leonardo Finmeccanica più 3,20, Telecom più 3%, Prismian più 2,60 come Mediobanca e Intesa San Paolo, Brembo più 2,30, Unicredit più 2,20%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo dalle notizie di carattere internazionale. Praticamente la Cina, secondo le prime indiscrezioni, starebbe lavorando al piano di una maxi fusione nel mondo della chimica tra Sinochem e Chemchina, che a noi riguarda vicino perché controlla il gruppo Pirelli allo scopo di combinare asset per oltre 100 miliardi di dollari, questo all'interno della ristrutturazione delle società controllate dallo Stato, non le chiameremmo partecipate, le grandi conglomerate statali cinesi. E bisognerà capire poi se andrà a buon fine l'operazione. I portavoce dei due gruppi hanno detto di non esserne a conoscenza, e chiaramente andrebbe a creare il colosso della chimica a livello cinese. Ne abbiamo parlato ieri, si è arrivati a un accordo invece in Gran Bretagna tra Tesco e Unilever, tornano in vendita alcuni prodotti, altri c'è stato un accordo, non si conoscono i dettagli, per cui da quello che anticipa la BBC sarebbe stata Unilever a rinunciare a un rincaro del 10% dei suoi prodotti. Ma secondo il Financial Times, se la sterlina continua a essere così debole nei confronti di euro e dollaro, altri casi potrebbero arrivare proprio di pressioni sui prezzi. Tra l'altro oggi il numero uno di Nissan, Carlos Ghosn, si è recato a Downing Street per discutere con il premier britannico Theresa May le agevolazioni che possono compensare le conseguenze nella Brexit. Perché? Perché la Nissan, nello stabilimento del Sunderland, esporta il 76% della sua produzione proprio verso l'Unione Europea, e allora ha detto che o sposterà la produzione nel continente oppure già sta valutando di spostare alcune produzioni nel continente europeo, e ha detto che comunque la produzione resterà in Gran Bretagna solo se il governo fornirà compensazioni per i maggiori costi dazi che dovranno pagare per esportare in Europa da non europei a quel punto. E oggi si è saputo che le Confindustrie di Italia e Germania invieranno al premier Matteo Renzi e alla cancelliera tedesca Angela Merkel 12 raccomandazioni, un patto per la competitività, l'hanno chiamato gli industriali tedeschi e italiani, per costruire una nuova primavera europea a partire dai temi economici. Si tratta, ha ricordato il presidente Confindustria Boccia, del primo e del secondo paese industriale d'Europa, cioè Germania prima, Italia seconda, e i due paesi lanciano, e le due Confindustrie lanciano questo messaggio nell'interesse di tutti e non contro qualcuno. Veniamo all'Italia, dove oggi è arrivato il bollettino economico della Banca d'Italia, che dice che per il sostegno della crescita occorre concentrarsi su misure per favorire gli investimenti. Con un ritorno a ritmi pre-crisi, il PIL italiano aumenterebbe di mezzo punto percentuale. L'occupazione comunque, fa notare la Banca d'Italia, cresce più del PIL, più 1,8%. Uno può fare la battuta, non ci vuole molto con il PIL che abbiamo, però cresce più l'occupazione del PIL. I lavoratori dipendenti sono tornati a livello pre-crisi. Ma l'aumento di aprile-giugno riguarda anche i lavoratori autonomi, e il mercato immobiliare è tornato, seppur con qualche incertezza, sottolinea la Banca d'Italia, al livello massimo dal 2010. È un bollettino abbastanza roseo quello della Banca d'Italia, dice che tra l'altro che sono in calo i rischi di fallimenti delle banche, e le sofferenze delle banche sono in calo, sono in media con i grandi gruppi europei. Ancora un dato perché riguarda l'inflazione, l'Istat ci ha dato la conferma sul dato preliminare, a settembre è leggermente risalita allo 0,1%, però attenzione, è dovuta semplicemente al prezzi del greggio, ai prezzi, scusatemi, delle materie prime energetiche. Tant'è che l'inflazione core, quella diciamo dei beni a maggiore consumo, frenano i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, meno 0,1%, e se poi si va a vedere sulle città più grandi, c'è ancora deflazione a Roma, meno 0,2%, Milano meno 0,5%, Ancona meno 0,2%, Ravenna meno 0,1%. Il dato invece che avete ascoltato anche nei nostri GR per quello che riguarda l'economia sommersa, questo è sempre dell'Istat, vale il 13% del PIL, il sommerso e l'illegale salgono, sono stimati in 211 miliardi di euro. Ci sono in Italia, c'erano nel 2014 3 milioni e 700 mila posti di lavoro irregolari, e sono tutte cifre in rialzo rispetto al 2013. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alberto Rioli. Dopodiché partiamo con la classifica e vi farò la premessa che alcuni mi chiedono sui conti di cui abbiamo già commentato del Sole 24 Ore. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Ora si chiama economia non osservata e unisce insieme il vecchio classico sommerso alle attività criminali vere e proprie. Ebbene, nel 2014, ultimo dato disponibile, l'economia non osservata era pari a 211 miliardi, vale a dire il 13% del PIL. Sono le cifre fornite oggi dall'Istat, che evidentemente trova il modo di osservarla, questa economia grigia è anche fuori legge. C'è di più, il valore aggiunto generato dalla sola economia sommersa ammonta a 194 miliardi, il 12% del PIL, mentre quello connesso alle attività veramente illegali vale il 17 miliardi, vale a dire l'1% del PIL. E parliamo di spaccio di stupefacenti, contrabbando e prostituzione. Se può essere di consolazione l'economia grigia, quindi quella non strettamente legata alla criminalità, il grosso del sommerso, ma in ogni caso sia l'economia irregolare sia quella illegale sono in crescita rispetto agli anni scorsi. Il sommerso deriva principalmente da sottodichiarazioni o lavoro in nero ed è molto elevato nel commercio, nei trasporti, nelle attività di alloggio e ristorazione e nelle costruzioni. Nel complesso l'Istat calcola che siano oltre 3,6 milioni i lavoratori irregolari, molti dei quali sono immigrati impiegati nei servizi di assistenza alla persona. Il tasso di regolarità dell'occupazione risulta particolarmente elevato nel settore appunto dei servizi alla persona, col 47,4% nel 2014, che è salito di 2,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Poi seguono l'agricoltura col 17,5%, il commercio, trasporti, la ristorazione e le costruzioni. E nel momento in cui il dibattito pubblico si accapiglia sugli 0, per quanto riguarda il dato della crescita, pensare che il sommerso legato a badanti, camerieri, autiste e manovale in nero sia quasi pari al PIL della manifattura è davvero inquietante. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Allora, piccola premessa, ci stava, alcuni ascoltatori dicono: ma perché non mettete anche dopo i dati diffusi sul bilancio del Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore? Per un motivo molto semplice, che in questa classifica noi ci occupiamo dei soldi pubblici e non abbiamo mai messo un gruppo privato anche quando in difficoltà. Ovviamente chi vi parla, come tutti i dipendenti, sono preoccupati, staremo a vedere, c'è un nuovo consiglio, un nuovo piano industriale che dovrà arrivare. Nessuno è contento, ma se anche ci dovesse essere un aumento di capitale verrà chiesto agli azionisti, non al pubblico. E ripeto, non è tanto il Sole 24 Ore, noi non abbiamo mai messo in classifica, pur vedendo e raccontando le cose non esaltanti, non abbiamo mai messo in classifica soggetti privati, quindi manterremo questa linea, manterremo solo in classifica i soldi pubblici. E allora andiamo subito al quinto posto e vorrei però partire con una cosa assolutamente positiva, perché è anche giusto darle queste. Allora, spesso purtroppo la Sicilia prende le nostre posizioni, anche le prime posizioni. C'è però una buona notizia, questo per dimostrare, non per fare del buonismo o mettere una foglia di fico sulle cose, ma a Santo Stefano Quisquina, provincia di Agrigento, grazie al virtuosismo dell'amministrazione comunale, adesso vado a cercare anche il partito del sindaco perché non ce l'ho nell'agenzia, ma è importante anche dirlo quando le cose funzionano, e mi riferisco al sindaco Francesco Cacciatore. Che cosa ha fatto? Allora, c'era un autobus per i bambini del paese che dovevano andare praticamente a scuola, tra l'altro il paese insomma è abbastanza disagiato, con un autobus vecchio di 28 anni che, secondo ammissione dello stesso sindaco, era pure difficile da far revisionare. hanno comprato un nuovo autobus da 28 posti. Il paese è in montagna ed è nella provincia di Agrigento. È costato 55.000 euro e voi direte: dov'è la buona notizia? Intanto che c'è un nuovo autobus, ma soprattutto che questi soldi la giunta del paese Santo Stefano Quisquina li ha ottenuti, sapete come? Ma non è populismo questo, riducendosi le indennità, o meglio il sindaco si è ridotto le indennità, il presidente del consiglio comunale si è ridotto, l'intera giunta, e tutti hanno rinunciato al gettone di presenza, tutti i consiglieri comunali, negli ultimi due anni e mezzo. E con questi soldi, vedi perché poi sono importanti anche le indennità e i gettoni di presenza di piccole realtà quotidiane, con questi 55.000 euro non cambi lo stato della finanza pubblica, ma riesci a comprare un piccolo autobus per i bambini, un autobus per i bambini piccoli, scusatemi, e ben venga a mettere al quinto posto una buona notizia. Il sindaco è di una lista civica, adesso mi comunicano una lista civica del paese. Andiamo al quarto posto, qui invece la classifica torna nella sua versione, ahimè, più classica. Quanto ci vuole? Noi sappiamo che in Italia, nonostante le varie dichiarazioni del governo, ancora i crediti che vantano le imprese nei confronti della pubblica amministrazione sono indecenti, soprattutto quando si tratta della sanità, soprattutto quando la sanità è al sud. Però quanto ci vuole secondo voi per ottenere 22, o meglio diciamo 9.500, 10.000 euro scarsi da una ASL al sud? Ci vogliono 28 anni, nel senso che questa è la storia di Giovanni Figliomeni, che ha 28 anni. Che cosa compie come grave errore nella sua vita? Completa i lavori che erano stati commissionati della ASL 24, trasloco dell'ufficio sanità a Siderno 1989, ok? Dove crolla il muro di Berlino, neanche. A Siderno, città adagiata sulla costa ionica calabrese, vabbè. Allora, completi i lavori che gli aveva commissionato la ASL 24. Il capitolato recitava: trasloco dell'ufficio sanitario, trasporto della documentazione amministrativa, trasferimento degli arredi e di altro materiale, pitturazione in tutti i locali. Ok, devono traslocare una ASL. Costo complessivo 22 milioni delle vecchie lire. Ok? E avevano fretta perché la procedura venne assegnata con urgenza e lui finisce i lavori in tempo. Bene, dopodiché non viene più pagato. Allora, pensate che la Confindustria stima che la media dei ritardi della sanità calabrese sia di 412 giorni. Già 412 giorni non si possono sentire, ma lui ci ha messo 27 anni, sta ancora aspettando. Si arriva dunque, nel luglio del 1989 gli uffici amministrativi della ASL di Siderno se la prendono comoda, pagano dopo le ferie, va bene, arriva settembre, niente, arriva Natale, niente, finisce l'inverno, niente, arriva la Pasqua, niente. Allora prende un avvocato, Francesco Macri, che al tempo aveva appena compiuto 30 anni, e fa causa alla ASL, alla USL si chiamava al tempo, non gliene frega nulla. Va al tribunale di Locri, dove la rapidità e l'efficienza è un'altra cosa, e la sentenza di primo grado arriva dopo 4 anni, ma come? Vabbè. Nel 94, ed è negativa. E chiaramente alla USL alla USL di Siderno si fregano le mani. Lui fa appello. Se per il primo grado arrivano 4 anni, per l'appello ne passano 10. E poi mi dite che non si può aprire una domanda e fare delle facili domande sull'efficienza, non sulla qualità delle sentenze, ma sull'efficienza di certe procure. Andiamo avanti, dicevo. Sentenza arriva nel 2004 e stavolta il giudice in appello dà ragione a Figliomeni. Sarebbe interessante, ma non lo so, capire perché il primo giudice avesse detto che non dovesse essere pagato. Però chi lo deve pagare? Perché la USL si è trasformata in ASL e la situazione della sanità reggina è disastrosa, quindi resta sempre in fondo alla sua pratica. Tutte le procedure si infrangono contro il muro della impignorabilità dei fondi della sanità, non possono essere toccati. Poi a un certo momento arriva un anticipo, 13.000 euro, però nel frattempo con gli interessi maturati lui ha bisogno di 30, deve ricevere 30.000 euro. Va in Cassazione, dopo altri 5 anni di Cassazione, la Cassazione gli dice: sì, hai il diritto di essere pagato. E siamo al 2009. Tutto tace, però, per i prossimi 6 anni. ormai sfiancati, figliomeni Macri, nel frattempo sono incanutiti, non so se ingrassati, hanno avuto figli, cioè hanno passato una vita assieme, capisci? Lui e il suo avvocato. Arrivano nel 2015 al Tribunale Amministrativo Regionale affinché vada a intimare l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria di chiudere questa vicenda. Il TAR reggino ci mette quasi un anno per decidere, ma quando finalmente decide, il 22 giugno del 2016, nomina un commissario ad acta perché provvede in tempi rapidi al pagamento. E chi è? È il prefetto di Reggio Calabria. Però in quel momento si sta avvicendando, quindi non c'è, il nuovo arriva il 1 settembre. E come arriva, si chiama Michele Di Bari, ha subito questa vicenda. Ora, voi vi rendete conto che al di là del fatto che il 10 ottobre 2016 Figliomeni, che ormai ha quasi 56 anni, sta ancora aspettando, ha cambiato vita, se n'è andato dalla Calabria, si è messo a fare il gelataio a Bologna, e gli dico anche il nome della gelateria, così un minimo di pubblicità gratis, si chiama Il Gelatauro, ha si è beccato pure il certificato di eccellenza di TripAdvisor. Andate a trovare il Gelatauro se volete, perché sto qua ha una vicenda allucinante. Il suo avvocato è invecchiato pure lui. La cosa bella è che lo Stato italiano in questo, per dare l'equivalente di quasi 10.000 euro di allora, ne sta spendendo 20 volte tanto, si calcola circa 200.000 euro tra cause, processi, IVA, insomma, e tutta la macchina burocratica. Complimenti veramente anche allo Stato italiano, ma la lista, diciamo, degli obbrobri è abbastanza interminabile. Allora, andiamo a sapere, vorrei sapere cosa ha fatto nel frattempo l'avvocato Macri, se anche lui fa il gelataio, se ha cambiato vita, non lo so, perché uno nella... cioè è anche frustrante. Andiamo al terzo posto. Allora, e Roma si becca al terzo posto, poi vado sul metro pubblicità. Allora, di cosa ha bisogno Roma come parte dell'Italia? Asili e scuole. Allora, una volta tanto che questi asili vengono costruiti, queste scuole vengono costruite, non si riesce a inaugurarle. Questo mi manda in bestia. Allora, tra l'altro, due scuole, un asilo e una scuola, in situazioni periferiche, popolose, con giovani coppie con figli, anche un po' disagiate, no? Stiamo parlando di Massimina, vicino a Malagrotta. C'è un asilo nido in via Francesco Aquilanti, pronto, completamente pronto per accogliere 60 bambini. Abbiamo, tutti gli italiani, già speso 1.200.000 euro nel 2012 con una convenzione tra Comune e Consorzio Solari. Il cantiere è finito a maggio del 2015. Nessuno in Campidoglio, sindaco Raggi, non ce l'ho con lei, ma diciamo, mandi qualcuno a prendere queste chiavi, prendete le chiavi. L'assessore all'urbanistica, si chiama Paolo Berdini, promette di aprire presto queste due scuole, però la cosa che fa arrabbiare Carlo Nicolini, che è il titolare della ditta che nei decenni ha costruito una cinquantina di scuole a Roma, è che tutto è agibile, la cucina è già arredata, ma finché il comune non se la prende in carico, lui deve garantire la sicurezza e impedire l'accesso a ladri e vandali. Genitore gli chiede una notizia, questo giochetto gli costa da un anno e mezzo 20.000 euro per il guardiano e poi deve avere altre spese, e questo è l'asilo. Poi c'è un'altra scuola fantasma, la materna in via Orazio Amato, in un'altra zona difficile e popolosa che si chiama Cilia. Allora, questo è un edificio moderno, deve accogliere 6 sezioni per un totale di 180 bambini, considerata opera strategica dalla Giunta Alemanno e poi da Marino, che per realizzarla hanno detto di no a altri lavori nello stesso quartiere, per esempio la biblioteca e il teatro. Ora, i lavori sono a 2/3, tutto è fermo per la burocrazia comunale. Voi direte, vabbè, magari ci sono dei problemi. No, c'è una variante che potrebbe essere a costo zero, ma nessuno si prende la responsabilità di firmarla. Allora, il bando del Campidoglio è del 2010, 1.800.000 euro. Progetto completamente finanziato, approvato l'anno dopo. Nel gennaio 2015 si può dare avvio al cantiere. Vengono fuori errori di progettazione, il genio civile analizza la pratica e chiede il rafforzamento delle travi della struttura, e fa bene, con un notevole incremento di ferro, calcestruzzo e opere necessarie. La variante si aggira sui 250-300.000 euro, ma secondo lo stesso costruttore, dice, guarda, potrebbe essere a costo zero perché basterebbe limitare le altre voci, come la sistemazione degli esterni, cioè almeno fai partire la scuola, poi gli esterni si stanno più avanti, la metti in sicurezza e la fai partire. Tutto fermo dallo scorso 24 giugno, e Nicolini ha anche licenziato i 10 operai. Gli costa mantenere in piedi la struttura 25.000 euro al mese, non ha quasi più soldi, e poi deve smontare le impalcature fra poco. Per ricostruire ci vorrà un altro bando di gara, altro che 300.000 euro. E insomma dice: ma vorrei solo vedere i bambini entrare a scuola, potete dare via un parere su sta variante? Date un parere su sta variante. Adesso andiamo al secondo e al primo posto, però dopo il meteo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Andiamo al secondo posto, vi anticipo però che siccome dopo parleremo della Papale di Vicenza, ma per la parte risarcitoria, ma c'è anche del nuovo, tra virgolette, sul ruolo di alcune istituzioni, Procura di Vicenza, Guardia di Finanza e altri personaggi, e il loro rapporto con i vecchi vertici della Papale di Vicenza Donin, non lo metto in classifica perché è un tema d'approfondimento per la famosa regola che mettiamo solo i soldi pubblici. E lì il danno è alto, ma sono soldi privati. Allora, al secondo posto, potremmo dire, ero indeciso se metterlo al primo, visto la montare, però è un quello che gli americani chiamano un warning, un avvertimento, per non dovervi avere in classifica, dico la regione Sicilia. Siccome scoppiò lo scandalo, il processo Corsi d'Oro, che coinvolge a Messina il deputato ex Dem, ora forzista, Francantonio Genovese, e c'è il processo Ciapi che a breve andrà a sentenza, che vede coinvolti tra gli altri deputato regionale Francesco Riggio, eletto col PD, oggi nel gruppo misto, e l'ex superburocrate dell'agenzia per l'impiego Rino Lonigro. Qual è il tema? Si chiamano corsi di formazione in Sicilia. Allora, poi non dite che non abbiamo detto, ok? Il nuovo mega bando che sta per partire sulla formazione professionale in Sicilia distribuirà 136 milioni di euro in un settore da sempre legato, ahimè, e sottolineo ahimè, a doppio filo con la politica siciliana, su cui si costruiscono fortune elettorali, come dimostrano le inchieste, perché ha il consenso di tutti quelli che ricevono i soldi. E il problema vero, sapete qual è? È che nemmeno servono la maggior parte di questi corsi della formazione, perché abbiamo visto che erano solo un votificio, si può dire, insomma, creavano voti e consenso elettorale. Quindi porremo la nostra attenzione, senza che vi sia ancora nessuna accusa, su l'ente che riceve il maggior numero di finanziamenti. Si chiama CERFIS, è un consorzio di enti e società che ha rilevato il colosso CEFOP, che negli anni d'oro aveva anche 30 milioni per quasi 1.000 dipendenti, e grazie a una accordata composta dalla società romana mediatica di Stefano Grilli, va bene, vicino all'area bersaniana dei Dem. Un altro ente è CESIFOP, diretto da Antonella Russo, che assieme al padre, ex responsabile ufficiale dell'UDC, lavora nel mondo della formazione. E poi ci sono il TED di Monreale, molti enti nel catanese, l'ERIS, lo STREC e quant'altro. Poniamo attenzione, vedremo cosa succederà, state in guardia, vediamo se funziona almeno in maniera preventiva dire che la regione Sicilia sta per distribuire 136 milioni di euro su un tema delicatissimo, viste le inchieste, alcune vanno a sentenza appunto, sullo spreco di denaro e l'utilizzo di questi soldi per fini esclusivamente di consenso elettorale. E il primo posto invece oggi lo diamo, abbiamo spesso elogiato la sua attività, è un soggetto chiaramente dello Stato, e l'abbiamo fatto, continueremo a farlo. Poi se non capiamo qualcosa, però non la capiamo, e soprattutto se non la capiamo ed è così grossa, si becca il nostro primo posto in classifica. And the winner is l'Agenzia delle Dogane. Ora, che cosa succede? Ma abbiamo raccontato in tutti i modi che nel paese, e in particolare a Roma, ci sono sterminate proprietà pubbliche immobiliari, chiaramente, in abbandono. circa 1 milione di metri quadri vengono voluti. Ex ospedali come il Forlanini, che da solo fa 170.000 metri quadri, il San Giacomo, che è vicino, vicinissimo se non ricordo male, a Piazza del Popolo, tutti di proprietà della Regione Lazio. Poi c'è il patrimonio inutilizzato del comune, tipo la vecchia Fiera di Roma. Insomma, tu dici, non mancano i metri quadri per i corpi della funzione pubblica dello Stato. Allora, mi potete spiegare, e giro la domanda al direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, Giuseppe Peleggi, perché l'11 luglio scorso il comitato di gestione della medesima Agenzia delle Dogane, presieduto dal medesimo Peleggi, delibera di acquistare un palazzo nell'estrema periferia romana alla modica cifra di 73.220.500 euro più IVA, e l'IVA non è un dettaglio con sto numeri, ma perché il venditore si chiama Torre SGR, il 62% di Torre SGR appartiene a Fortezza Re del gruppo Fortress Lussemburgo, il restante 37,5% invece di Unicredito. Il presidente della società che va a vendere è comunque Giovanni Castellaneta, niente da dire. Grande diplomatico, feluca di razza, vicepresidente di Finmeccanica, presidente della SACE, presidente oggi di Do Bank, che prima si chiamava Unicredit Management Bank, è stato numero uno della sede diplomatica a Washington, Berlusconi, poi sempre con Berlusconi ha fatto anche il consigliere diplomatico, ma al di là del suo ruolo, poi c'è anche, scusatemi, dentro la torre, nel CDA di Torre SGR c'è anche Enzo Cardi, a lungo presidente delle Poste. E vabbè, il prezzo l'ha determinato l'Agenzia del Demanio, però io vorrei capire, ma come mai, tra l'altro proprio alcuni anni fa il Ministero delle Finanze ha ceduto alcuni complessi immobiliari con lo scopo di contribuire all'abbattimento del debito pubblico, e poi sempre il Ministero prende in affitto un immobile che il Fondo di Previdenza dei suoi dipendenti aveva comprato al Monte dei Paschi di Siena, no? Quindi sta cosa la conosciamo, ma possiamo sapere se veramente si sono esplorate tutte le possibilità prima di decidere di comprare per 73.220.000 euro più IVA un immobile per l'Agenzia delle Dogane? Siamo sicuri che non vi fosse nessun edificio, allora ci riducono 1 milione di metri quadri, adibibile a questo con una spesa più bassa? Intanto l'applauso per l'oculatezza se lo becca l'Agenzia delle Dogane. Vedo molti messaggi sul ruolo delle istituzioni a Vicenza. Ragazzi, insomma, adesso ne parleremo in maniera estesa, ma è chiaro che qualcuno si è girato dall'altra parte. Non crei il disastro che ha creato la gestione Zonin, e ci sono delle cose anche molto gravi, perché parleremo anche del magistrato donna che è stata vessata, accusata, ha dovuto fare ricorso, cacciata perché lei non voleva archiviare già in tempi non sospetti la gestione di Zonin. E poi scopriamo che il procuratore capo allora di Vicenza, che ha avvocato a sé l'inchiesta e ha iniziato a fare, secondo l'accusa del magistrato, mobbing vero e proprio, il magistrato capo della procura di Vicenza a quel tempo, adesso è Antonio Foiadelli, che poi archivia la prima inchiesta su Zonin. Quando va in pensione Foiadelli nel 2014, va a fare il presidente di Nord-Est SGR, società di fondi di investimento della Popolare di Vicenza. Ma poi aggiungeremo anche casi strani, quantomeno di opportunità, presidente Mari. Non voglio anticipare tutto, andiamo sul caso Virtuoso invece. Foiadelli, quantomeno il procuratore capo Foiadelli l'ha fatto male, perché se sei stato con procuratore capo fino al 2014 e non hai visto una mazza di quello che capitava dentro la Popolare di Vicenza, beh, fatti una domanda: che cosa hai fatto procuratore capo a fare? Si può dire? Si può parlare dei magistrati male ogni tanto? Si può? Oh. Andiamo sul caso Virtuoso, sarà terrorizzato l'ospite, ma non si preoccupi. Carlo Alberto Guglielmotti, amministratore delegato di Electro Power System, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti. Allora, senta, cosa fa Electro Power System? Ce lo dice dopo il traffico. Focus Economia. I wanna be free. Allora, cosa fa la Electro Power System? Quando è nata? Chi vi ha dato i soldi? Allora, Electro Power Systems innanzitutto è una società che ha disegnato e produce e installa in tutto il mondo sistemi di stoccaggio di energia ibrido. Mm-hmm. Sostanzialmente accoppia fonti rinnovabili come il solare, accoppia tecnologie di accumulo e trasforma le fonti rinnovabili intermittenti, che sono evidentemente intermittenti, in una fonte di energia stabile e l'energia ha un costo più basso delle fonti tradizionali. Siamo una società nata tecnologicamente nel 2005 da uno spin-off del Politecnico di Torino e di Milano, che però nasce come reale, non come laboratorio di ricerca o come garage, ma come reale società nell'ottobre 2013, 3 anni fa, quando sono entrato in azienda per costruire sulla base della tecnologia. Lei quanti anni ha? Un'azienda, 33. E i soldi chi ve li ha dati? I soldi ci sono andati, uno dei più grandi fondi venture capital all'inizio italiani, 360 Capital Partners, di cui sono stato operating partner per qualche anno, peraltro, e ce li ha dati Aircel, che è una grande banca di investimento di Torino, e il gruppo Prima Industria. Questi sono i primi 3 azionisti che hanno dato fiducia alla società dall'inizio, dal momento zero, investirono anche all'inizio della tecnologia, nel centro di ricerca addirittura, e poi ci siamo quotati l'altro anno sul mercato di Parigi, siamo una società quotata e abbiamo raccolto l'altro anno, tra aumento di capitale e quotazione, 20 milioni di euro. Quanto fatturate e quanti siete? Possiamo dirlo perché abbiamo dato guidance ufficiale al mercato, siamo partiti dal 2014 assolutamente a zero, 700 mila euro, 2015 1,2 milioni. Quest'anno solo nel primo semestre abbiamo preso 8 milioni e mezzo di ordini, fatturato 2 milioni e mezzo e chiuderemo l'anno con, perché abbiamo già dato agli analisti del mercato, quindi è pubblico, circa 6 milioni e mezzo di fatturato, con delle attese degli analisti a 20 milioni per il prossimo anno. Oh, complimenti, quando vuole io sono qui. Nel senso, no, a parte le battute, quanti siete e che profilo avete? Perché poi devo andare sul GR. Allora, siamo 85 persone oggi, il 25% delle nostre risorse ha un dottorato di ricerca, generalmente in ingegneria elettrica, il 73% un ingegnere, quindi siamo una società ad altissima componente ingegneristica. Beh, e tutti ragazzi, giovani insomma, come età media? Decisamente, l'età media è circa 35 anni, abbiamo però anche persone di grande esperienza che ci hanno raggiunto negli anni. Tutti italiani ingegneri? Assolutamente sì, tolto 2 di origine africana, perché siamo molto attivi in Africa, uno dei primi mercati sono i paesi emergenti, in particolare l'Africa, comunque assolutamente sì, tecnologia interamente italiana, abbiamo raccolto... No, ma gli ingegneri italiani, ma perché vi piace l'Italia o per la preparazione? Immagino per la seconda, però vorrei capire. Assolutamente per la seconda, perché gli ingegneri e soprattutto quelli elettrici italiani sono i migliori ingegneri al mondo. Oh, lo dica alto e forte, di nuovo, vai. Ma l'ingegneria elettrica italiana è un'eccellenza mondiale. Gli Stati Uniti sono un paese del terzo mondo a confronto. La miseria. Bene, se così oggi apriamo un contenzioso anche con l'ambasciata americana. Grazie a Carlo Alberto Guglielmotti, ministro delegato di Electro Power System, che ha raccolto anche oltre il mio invito. Adesso andiamo su GR24, poi parliamo di Borsa Popolare di Vicenza, l'azione di responsabilità verso i vecchi vertici e anche chiaramente l'incontro governo sindacati sull'APE, sull'anticipo pensionistico. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. State ascoltando un programma offerto da... SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, ci ha scritto il direttore dell'agenzia delle dogane Peleggi, cercheremo di averlo ospite lunedì, per dice che l'acquisto non è avvenuto, adesso lo chiameremo, adesso dobbiamo andare avanti con il resto della scaletta, disponibile per ogni precisazione e chiarimento. Ebbene, come sempre facciamo, l'avremo ospite lunedì se vuole, comunque ascolteremo i suoi chiarimenti dopo. Andiamo sulla borsa. La borsa oggi la faccio io, vi dovete accontentare, tanto i due titoli sono Banco Popolare, Popolare di Milano più 6,25, Banco Popolare più 6%, Popolare di Milano. Il motivo è molto chiaro, perché domani ci sono le assemblee, quella della Banca Popolare con 6.000 partecipanti che dovranno votare la fusione. Poi Unipol più 5,48%, ancora Unipol Sai più 5,30%, Pop Emilia Romagna più 5,20%, oggi bene tutte le banche, Ubibank più 3,5%, Leonardo Finmeccanica più 3,31%, Telecom Italia più 3,10%, anche qui voci che nel riassetto Mediaset, Vivendi, ci sarebbe un ruolo anche per Telecom Italia. Intesa San Paolo più 2,70%, Brembo pure 2,5% guadagna Mediobanca, e anche Buzzi Unicem. Invece il Monte dei Paschi di Siena rispetto al resto delle banche cresce meno. C'è oggi il consiglio di amministrazione con l'aggiustamento, diciamo, sul piano industriale, che però dovrà essere approvato il prossimo 24 di ottobre. Ancora il Monte dei Paschi alla fine guadagna solo lo 0,20%, mentre tra i migliori e i peggiori segnalo Banca Cassa del Risparmio di Genova, che perde il 3,80%. Qui sulle voci che potrebbe arrivare la richiesta di un nuovo aumento di capitale. Miglior titolo Italia Independent più 25%, Industria e Innovazione più 6,70%, Credito Valtellinese più 6,20%, Neurosoft più 6,60%. Allora, occupiamoci della Banca Popolare di Vicenza, della parte nuova, del futuro, diciamo così, e soprattutto della decisione presa, contrariamente a quanto è avvenuto prima dell'estate, di andare verso un'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ne parliamo però ricordando anche due o tre cosette che, solo perché non abbiamo mai messo soggetti privati nella classifica, non sono entrate nella nostra classifica. Allora, adesso arriviamo all'azione di responsabilità. Voglio far notare due o tre cosucce che la dicono lunga anche sul fatto se si possa o no valutare l'attività della magistratura. Visto che sto parlando dell'ex procuratore capo di Vicenza, si chiama Fogliadelli, Antonio Fogliadelli, è stato dal 97 al 2003 procuratore capo di Vicenza, della Procura di Vicenza, dal 2003 al 2014 procuratore capo a Treviso. Ora stiamo parlando di coincidenze. Faccio notare che da una parte c'è la Popolare di Vicenza, dall'altra c'è Veneto Banca, ma stiamo parlando di coincidenze. La cosa interessante però sulle coincidenze è che Fogliadelli, quando c'è la prima inchiesta su Zonin, la gestione Zonin, che è di un magistrato. Allora, lei si chiama Cecilia Carreri. Sentite questa storia. Allora, Cecilia Carreri il 22 giugno del 2002 rifiuta di archiviare un fascicolo a carico di Zonin Giovanni e altri, aperto per truffa, false comunicazioni sociali, conflitto di interessi. Siamo ancora nel 2002. L'inchiesta era partita da una serie di esposti di soci e dal memoriale di Giuseppe Grassano, uno dei tanti direttori generali che sono cambiati nel 7 in 20 anni, che ha cambiato Zonin. Si accusavano i vertici della banca di aver occultato nel bilancio del 1998 ben 57 miliardi di lire di perdite sui derivati, e poi veniva segnalata un'operazione immobiliare sospetta e in conflitto di interessi tra la banca e la famiglia Zonin. Poi c'era la storia di Acta, una società sempre del gruppo Zonin che si era fatta finanziare per 18 miliardi di lire dal Mediocredito Trentino Però poco dopo il prestito, la Popolare di Vicenza a sua volta acquista 18 milioni di obbligazioni proprio del Mediocredito Trentino. Allora, ci sono tutti insieme di passaggi, transazioni sospette. Il procuratore capo, all'epoca appunto Foiadelli, avvoca a sé l'inchiesta e vabbè, e decide a un certo momento di andare verso l'archiviazione. Cosa succede? Perché la Carrera invece dice: guarda che qui ci sono fatti e comportamenti molto gravi, c'è una continua commistione tra gli interessi istituzionali della Popolare di Vicenza e gli interessi personali o societari del tutto estraneo. L'imputazione è una bomba, imputazione coatta per il presidente della Popolare di Vicenza. Quando tutto arriva all'udienza preliminare, il giudice dell'udienza preliminare, Stefano Furlani, decide a gennaio 2003 il non luogo a procedere per i reati di truffa e false comunicazioni sociali. Passano due mesi, la procura di Venezia dice no, perché, e impugna la sentenza dicendo: guardate che il falso in bilancio è materialmente accettato e il GUP di Vicenza ha palesemente travalicato i limiti delle sue funzioni. Poi torna a Vicenza, anche se c'è un errore di notifica che fa perdere altro tempo. Arriva la seconda archiviazione e anche questa volta la procura di Venezia non è d'accordo e la rimpugna e parla di illogica decisione assolutoria. Sono frasi gravissime con quello che poi è successo dopo. Ci vogliono 4 anni per arrivare all'udienza preliminare che sfocia in una nuova sentenza di non luogo a procedere. Ma quello che è interessante è che il GIP Carreri, la prima che aveva istruito la vicenda, l'inchiesta, viene sommersa di fascicoli, isolata, e secondo la sua accusa, lei ha anche un insieme di patologie alla schiena, viene accusata dai magistrati, da alcuni magistrati, di essere in malattia, ma di stare facendo una gara transoceanica. Quindi arrivano esposto al CSM, lei si autosospende, e però dimostra che non era in malattia, stava smaltendo le ferie arretrate. Quando uno è in ferie va dove cavolo vuole, e tra l'altro la vela gli era stata consigliata per combattere le discopatie. Comunque l'accusa era falsa, non era in malattia, era in barca a vela perché era in ferie. La Carreri vince tutte le battaglie penali e a cominciare dalle accuse di assenteismo, e quindi e dice: io sono stata isolata dopo che ho toccato Zonin. Questo lo dice in un'intervista, se non ricordo male, a Stefano Lorenzetto per il giornale. E accusa anche il procuratore capo: si assegnava le inchieste più scottanti e mi chiedeva di chiudere le indagini per infondatezza della notizia di reato. Io respingevo le richieste, evitavo l'insabbiamento dei processi. Il ministro Orlando deve ancora far sapere del reintegro del magistrato Cecilia Carreri. Ma vorrei far notare alcune coincidenze e mi fermo al tema delle coincidenze. Foiadelli, quando smette di lavorare, dopo che è stato anche procuratore capo a Treviso e poi è andato in Cassazione, se non ricordo male, va a fare il presidente di Nord-Est SGR, società di fondi investimento della Popolare di Vicenza. Alla Guardia di Finanza di Vicenza arriva nel 2006 Giuseppe Ferrante, che guida il nucleo di polizia tributaria ai tempi della prima inchiesta su Zonin. Tutto normale, sì, non c'è nessun problema. Faccio notare che anche uno dei successori di Foiadelli, Paolo Pecori, è rimasto con la toga sulle spalle, però il figlio Massimo fa l'avvocato per la banca Popolare di Vicenza, fa il recupero crediti della banca. Tutto regolare, problema di opportunità, forse. Poi c'è Emanuele Romei Pasetti, che ha fatto il presidente della Corte d'Appello di Venezia, competente sul Tribunale di Vicenza, protagonista appunto di un insieme di lungaggini incredibili sulla prima inchiesta Popolare di Vicenza. Nel 2012 cosa va a fare la consigliera indipendente di Banca Nuova, che è la controllata siciliana Popolare di Vicenza? Tutto normale. Gianandrea Falchi, assunto nel 2013 a Via Nazionale, dove era nella segreteria del governatore Mario Draghi, per occuparsi di relazioni istituzionali. Anche lui, e prima di lui Luigi Amore, ex ispettore ingaggiato come capo dell'audit interno. Mario Sommella, ex Banca d'Italia, arruolato nel 2008 per la Popolare di Vicenza per la segreteria generale. E poi c'è il mitico Andrea Monorchio, ex ragioniere generale dello Stato, con molte entrature, che alla modica cifra di 284.000 euro l'anno viene preso dalla Popolare di Vicenza nel 2011 come vicepresidente. Poi abbiamo i rapporti con Cuffaro Lombardo, visto che c'è una controllata appunto Banca Nuova anche in Sicilia, e con telefonate amichevoli, va bene, ma tutto bene. Faccio notare che la Popolare di Vicenza si è accollata nel 2014 una spesa di 9 milioni e mezzo per acquistare Palazzo Repetta, ex sede vicentina della Banca d'Italia, in venduto da 5 anni, un prezzo superiore di 200.000 euro la base d'asta, un immobile che nessuno voleva, ed è comunque un favore di facto alla Banca d'Italia. Sono tutte coincidenze, faccio notare, che poi scoppia il bubbone della Popolare di Vicenza e praticamente decine di migliaia di azionisti da 64 euro per azione vanno a 0,1 centesimo senza avere la possibilità di venderle. Nel frattempo la banca fallisce assieme a Veneto Banca, viene salvata dal fondo Atlante, e adesso ospite nostro è Salvatore Bragantini, vicepresidente della Popolare di Vicenza, ex commissario Consob. Buonasera. Buonasera a voi. Una precisazione devo fare io, un disclaimer. Io ho intervistato, l'abbiamo sempre menzionato, da Gianni Zonin più volte, nella maggior parte dei casi come produttore di vino, in altri casi come presidente della Popolare di Vicenza. Ho anche visitato le sue cantine, visto che il vino mi appassiona privatamente. Detto questo, nessuno poteva, ma con tutte le interviste che potete ascoltare, detto questo, non mi sembra che abbiamo risparmiato a Zonin, così come ai vertici, mi riferisco a Consob, di Veneto Banca, nulla in questo periodo. Bragantini, vuole fare un commento su queste strane coincidenze o andiamo all'azione di responsabilità? Andiamo all'azione di responsabilità. Vabbè, allora andiamo sul traffico che è meglio. Focus Economia. Ultima parte del programma, l'APE, inteso come non l'aperitivo, ma l'anticipo pensionistico, mi sa che dovremmo farlo lunedì. Guardate, io non ho detto, ho fatto solo notare delle coincidenze su funzioni svolte da ex magistrati o ex dipendenti della Banca d'Italia e quant'altro. Faccio solo notare che il bubbone della Popolare di Vicenza lo fa esplodere la Banca Centrale Europea di Mario Draghi quando manda gli ispettori, dice: cosa? Voi avete tutti questi attivi, come attivi dovete metterli in sofferenza, e lì salta tutto, salta il castello complessivamente. Sono tutte coincidenze. Allora, vicepresidente Bragantini, perché vi siete convinti a fare l'azione di responsabilità e proporre all'assemblea di fine novembre quella che non era passata, diciamo, nel marzo del 2016? Io non so perché non è passata nel marzo del 2016, probabilmente non c'erano ancora gli elementi necessari. Perché, diciamo, quello che bisogna tenere presente è che per proporre azioni di responsabilità bisogna allegare della documentazione che deve essere inattaccabile e che non è sempre semplice mettere insieme. Noi ora lo stiamo facendo e quindi l'azione partirà. Non so quanto riusciremo a ottenere da questa azione. Perché contro chi le farete? Ma faremo contro le persone che se la meritano. In questo momento non è il caso di fare nomi, anche se alcuni sono ovvi. Cioè, l'ex so presidente Zonin. Azioni. So però che il nostro dovere, direi morale, a tutela della banca Popolare di Vicenza, che è una storia di 150 anni che non merita di terminare in questo modo ingoioso. Senta, ma i soldi che eventualmente riuscirete a ottenere, immagino, da Zonin da una parte e Sorato dall'altra, almeno loro due, no? Ex presidente e amministratore delegato, a cosa serviranno? Il patrimonio della banca, diciamo, è a difesa di tutti i clienti, diciamo, sia dei depositanti che di coloro che hanno i finanziamenti della banca. Quindi, diciamo, in questa vicenda noi abbiamo comunque dei vincoli di patrimoniali da rispettare con la BCE, quindi, diciamo, noi magari potremmo usare una parte di questi fondi anche per un'azione di parziale ristoro delle perdite di coloro che hanno perso investendo nella banca. Ecco Bragantini, insomma, lei è sempre stata una voce indipendente, nostro ospite altre volte. Che situazione ha trovato nella propria Vicenza? È una situazione difficile. Difficile sulle sofferenze? Difficile i problemi della banca sono stati anche troppo alla tensione pubblica, quindi non è necessario, secondo me, di percorrerli tutti. L'importante è che la banca ha una storia e una tradizione che le consentirà, una volta che riguadagnerà la fiducia dei suoi clienti, opera che è in corso, di continuare. Diciamo, il problema degli NPL è noto, il problema delle liti, NPL vuol dire i crediti che non vanno bene. E poi ci sono le liti portate dagli azionisti che hanno perso dei soldi. A questo proposito, mi permetta di dire una cosa, che di tutto che investire in azioni è un'attività rischiosa, a rischio, e quindi diciamo questo va messo comunque nel conto. Seconda cosa è che un conto sono i casi di frode, di truffa, che se verranno dimostrati meriteranno un diverso trattamento, ma per il resto ricordiamo che tanto è a rischio l'investimento in azioni che ci sono titoli bancari quotati che negli ultimi 10 anni hanno perso, 9 anni, hanno perso 80% e più del loro valore. Certo. Quindi non è che chi investiva una propria licenza doveva essere, diciamo così, al di fuori di questi rischi. Non vale il discorso che faceva sull'Odato Zonin quando diceva: noi non abbiamo quotato la banca perché così noi non siamo soggetti alle vicissitudini del mercato, il prezzo dell'azione saliva. Ecco. Ecco, no, perché qui lei ha ragione, Bragantini, nel dire: attenzione, quando tu compri azioni il rischio ce l'hai, dovresti saperlo. Ci sono due particolari qui. Il primo è che, non essendo quotate, quando tu le avevi in carico a 62,50 € e cercavi di collocarle, mentre un'azione normale sul listino trovi sempre un compratore, magari ci perdi il 5-10%, ma un compratore lo trovi. Lì dove ha trovato la banca, e incredibilmente non c'era mai un compratore, scendono poi a metà del prezzo, nessun compratore. Alla fine il diritto di recesso viene fissato nel febbraio 2016 a 6,30 €, cioè un decimo praticamente, per poi scendere a 0,1 €. Sì, vede, sì, e il secondo aspetto che volevo capire è: tutti quelli che possono dimostrare che per ottenere un mutuo hanno dovuto comprare azioni avranno una corsia preferenziale? Guardi, non mi faccio entrare nel merito, diciamo, di cosa faremo nel dettaglio, anche perché non l'abbiamo proprio definito nei minimi particolari. Però voglio dire che questa banca, l'assemblea non si svolgeva sotto la minaccia delle armi. È vero. Sono 20 anni che questo regno è continuato incontrastato ed erano tutti contenti e tutti applaudivano. Questo siamo anche il paese dove il 26 luglio erano tutti antifascisti. Bravo, Bragantini, questo io le do ragione, perché pur restando convinto dell'innocenza di molti risparmiatori che hanno creduto nella solidità della banca, nell'operazione della banca, è anche vero che al di là dei piccoli risparmiatori, dell'anziano, del pensionato o pensionata, non c'è stato nessuno in questi anni a Vicenza che si è mai alzato, oddio, un magistrato, abbiamo visto che fine ha fatto, per dire qualcosa non va in questi conti. Ma non è strano che anche la Banca d'Italia non le abbia viste queste cose? Anche l'Italia ha fatto il lavoro che ha fatto e io non entro nel merito di questo perché francamente non ho elementi per farlo. Non è vero che nessuno si sia opposto, perché c'è in particolare un socio di Donigo che da anni e anni svolgeva un'azione solitaria di opposizione a questo. Però lei fa bene a ricordare che dopo il 26 luglio siamo tutti antifascisti e improvvisamente allora, alcune cose non erano obiettivamente immaginabili e potevano essere scoperte, nel senso che quando tu hai anche ostacolo all'attività di vigilanza, aggiottaggio e diciamo anche una falsificazione dei bilanci, è difficile scoprirlo. Però è vero che delle volte tutti ci scopriamo poi, e soprattutto nella provincia di Vicenza o nella provincia di Treviso, improvvisamente non volevi delle volte vedere, ti andava bene così e pensavi che tutto potesse continuare in questo modo. L'assemblea per quando è fissata, Bragantini? Entro la fine di novembre, probabilmente 26-27, ancora non abbiamo guardato l'agenda, entro la fine di novembre. Però voglio dare atto a qualche socio, in particolare ho presente un socio di Donigo, sì, che ha indefessamente per anni e anni sollevato i problemi che hanno portato a questa situazione, ed è stato regolarmente ignorato da tutta l'assemblea. Delle volte uno dovrebbe mettersi anche una mano sulla coscienza, ripeto, c'è chi non poteva veramente immaginare. Però, visto che parlavamo di una rete, diciamo così, di consenso, possiamo dire questa parola? Consenso, ho detto. Non ho detto un'altra parola che inizia per C, ho detto consenso. Rete di consenso nella provincia di Vicenza e non solo, evidentemente si è preferito girarsi da un'altra parte o si è preferito semplicemente non vedere, non chiedere. Delle volte basta anche non chiedere. Grazie intanto Salvatore Bragantini, la risentiremo dopo l'assemblea, appunto, per capire se passerà l'azione di responsabilità. Mi scrive un ascoltatore: ho chiesto un mutuo da 30.000 euro, mi hanno chiesto di comprare 100 azioni da 62 euro, come potevo sapere che la banca aveva falsificato il bilancio? Sì, lo so, questo l'ho capito, lo capisco anch'io. Stiamo parlando di livelli un po' più se vogliamo, alti e il consenso cioè un po' più alto, fermo restando che poi io sono veneto, quindi lo posso dire, veneti un po', veneti lo sono stati sia a Treviso che a Vicenza, un po', diciamo un po'. Allora, grazie Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Lunedì parliamo dell'APE, chiaramente, dell'anticipo pensionistico, e sentiremo se vuole intervenire anche il direttore dell'Agenzia delle Dogane. Un ringraziamento come sempre a voi in ascolto, un augurio di buon fine settimana per chi, a partire da chi dovrà passarlo lavorando. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.